Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Sono originario di Ginevra. E la mia famiglia è una delle più note di quella repubblica. I miei antenati sono stati per molti anni consiglieri e sindaci, e mio padre ha ricoperto con onore e fama varie cariche amministrative. Era rispettato da tutti coloro che lo conoscevano per l'integrità e per la solerzia che dedicava ai pubblici affari. Aveva passato gli anni giovanili continuamente assorbito dalle faccende del suo paese. Una serie di circostanze gli aveva impedito di sposarsi da giovane, e fu solo sul declinare della vita che divenne marito e padre di famiglia. Non posso fare meno di riferire le circostanze del suo matrimonio, dato che esse valgono a illustrare il suo carattere. Uno dei suoi amici più intimi era un mercante che da uno stato di ricchezza era stato ridotto in povertà da una serie di rovesci di fortuna. Quest'uomo, Boffò, aveva un carattere orgoglioso e inflessibile, e non poteva sopportare di restare povero e dimenticato nello stesso paese dove si era, un tempo, distinto per rango e magnificenza. Dopo aver quindi pagato nel modo più onorevole tutti i suoi debiti, si ritirò con la figlia nella città di Lucerna dove visse misero e sconosciuto. Mio padre, che era legato a Boffò da una sincera amicizia, si addolorò profondamente per il suo ritiro in circostanze così sfortunate. Deplorava amaramente il falso orgoglio che aveva indotto l'amico a una condotta così poco degna dell'affetto che li univa. Quindi non perse tempo e si mise subito a cercarlo, con la speranza di riuscire a persuaderlo a ricominciare, con il suo credito e il suo appoggio. Ma Beaufort aveva preso misure efficaci per fare perdere le proprie tracce, e passarono 10 mesi prima che mio padre scoprisse il suo nascondiglio. Lieto oltre ogni dire per il successo delle sue ricerche, si affrettò alla casa che era situata in un vicolo nei pressi del Reus. Ma come entrò, lo accolsero solo miseria e disperazione. La figlia lo curava con la più grande tenerezza, ma si accorse con disperazione che il loro piccolo capitale si andava assottigliando rapidamente e che non c'era nessun'altra prospettiva di sostegno. Ma Caroline Beaufort possedeva una tempra non comune, e il suo coraggio la sostenne nelle avversità. Si procurò lavori semplici, intrecciava paglia, e in vari altri modi riuscì a guadagnare quanto bastava almeno al sostentamento. In questo modo passarono diversi mesi. Il padre peggiorò. Ella dovette occupare quasi tutto il tempo a curarlo. I mezzi di sussistenza diminuirono, e nel corso del 10° mese il padre le morì fra le braccia, lasciandola orfana e in miseria. Quest'ultimo colpo la sconvolse ed ella piangeva amaramente, inginocchiata accanto alla bara di Beaufort, quando mio padre entrò nella stanza. 2 anni dopo, Caroline divenne sua moglie. C'era una notevole differenza di età tra i miei genitori, ma ciò sembrava unirli ancora di più, con un legame di affetto devoto. Vi era nella mente retta di mio padre un senso di giustizia che rendeva necessario che egli provasse stima per qualcuno per poterlo amare profondamente. Durante i 2 anni che avevano preceduto il matrimonio, mio padre aveva gradualmente abbandonato tutti gli incarichi pubblici. E subito dopo la loro unione, essi cercarono nel piacevole clima dell'Italia e nel cambiamento di panorama e di interessi connesso a ogni viaggio in quel paese meraviglioso, un ristoro per il fisico indebolito di mia madre. Dopo l'Italia visitarono la Germania e la Francia. Io, il loro primogenito, nacque a Napoli e fin da quando ero in fasce li accompagnai nei loro vagabondaggi. Lungo, l'unico oggetto delle loro cure. Mia madre desiderava molto una figlia, ma io continuavo a essere il loro unico rampollo. Quando avevo circa 5 anni, durante un'escursione al di là della frontiera italiana, trascorremmo una settimana sulle sponde del lago di Como. La loro natura caritatevole li faceva spesso entrare nelle case della povera gente. Questo era per mia madre più che un dovere. Era una necessità e una passione. Ricordando ciò che aveva sofferto e come era stata soccorsa, comportarsi come un angelo custode nei confronti degli afflitti. Durante una passeggiata, una povera casupola nei recessi di una valle attirò la loro attenzione per l'aspetto particolarmente desolato e per il numero di bambini seminudi lì riuniti che rivelavano la miseria più nera. Un giorno in cui mio padre era andato da solo a Milano, mia madre visitò quel casolare insieme a me. Vi trovò un contadino e sua moglie, segnati dal duro lavoro, piegati dalle preoccupazioni e dalla fatica, che distribuivano un misero pasto a 5 bambini affamati. Tra questi, una in particolare attirò l'attenzione di mia madre. Sembrava di un ceppo diverso, mentre gli altri 4 erano piccoli monelli con gli occhi scuri. La bambina era minuta e di carnagione chiara. I suoi capelli erano dell'oro più splendente e, nonostante la povertà degli abiti, sembravano crearle attorno al capo una corona di distinzione. La fronte era ampia e spaziosa, gli occhi azzurri e limpidi, mentre le labbra e la forma del viso esprimevano tale dolcezza e sensibilità che nessuno poteva guardarla senza crederla di una specie diversa, una creatura mandata dal cielo, che aveva nei tratti un'impronta celeste. La contadina, notando che mia madre fissava quella splendida bambina con ammirazione e meraviglia, gliene raccontò volentieri la storia. Non era figlia sua, bensì di un nobiluomo milanese. La madre era tedesca ed era morta dandola alla luce. La bambina era stata messa a balia presso di loro, che allora erano in condizioni migliori. Si erano appena sposati ed era nato da poco il loro primo figliolo. Il padre della creatura che era stata loro affidata era uno di quegli italiani cresciuti nel ricordo dell'antica gloria d'Italia, uno di quegli schiavi ognor frementi che si sforzavano di ottenere la libertà del proprio paese. Era caduto vittima della propria ossessione. Che fosse morto o languisse nelle prigioni austriache non era noto. Le sue proprietà erano state confiscate e la bambina era rimasta orfana e povera. Era rimasta con i genitori adottivi ed era fiorita nella loro rozza casupola, più bella di una rosa da giardino tra rovi dalle foglie brune. Quando mio padre tornò da Milano, nell'atrio della nostra villa, trovò che giocava con me una bambina più bella di un cherubino dipinto, una creatura che sembrava irradiare luce e che nel corpo e nei movimenti sembrava più leggera di un camoscio dei monti. Quell'apparizione fu presto spiegata. Consultarono il parroco del villaggio e il risultato fu che Elizabeth, la tenza, divenne parte della famiglia dei miei genitori e per me più di una sorella, splendida e adorata compagna di ogni gioco e attività. Tutti amavano Elizabeth. L'attaccamento appassionato e quasi reverente di cui tutti la circondavano diventò per me, dato che anch'io lo condividevo, fonte di orgoglio e di piacere. La sera prima che fosse portata a casa nostra, mia madre aveva detto scherzosamente: «Ho un bel regalo per il mio Victor. Lo riceverà domani». E quando, il mattino dopo, mi presentò Elizabeth come il dono promesso, io interpretai le sue parole in senso letterale, con serietà di bambino, e considerai Elizabeth come mia, mia, da proteggere, da amare e accudire. Tutte le lodi che riceveva le consideravo come fatte a qualcosa di mia proprietà, Ci chiamavano familiarmente cugini, ma nessuna parola, nessuna espressione potrebbe rappresentare il tipo di rapporto che mi legava a lei, alla mia più che sorella, perché fino alla morte sarebbe stata solo mia. Fummo allevati insieme e in effetti non c'era neanche un anno di differenza tra noi. Non ho bisogno di dire che eravamo del tutto estranei a ogni sorta di disaccordo o litigio. L'armonia era l'essenza della nostra amicizia e la diversità e il contrasto esistenti tra i nostri caratteri ci avvicinavano di più. Elisabeth era di natura più calma e riflessiva, ma nonostante tutto il mio ardore, io avevo una maggiore capacità di applicazione ed ero più infiammato dalla sete di conoscenza. Ma mentre la mia amica contemplava con spirito serio e appagato il magnifico aspetto delle cose, io mi dilettavo a investigarne le cause. Il mondo era per me un segreto che desideravo svelare. La curiosità, la brama di apprendere le leggi nascoste della natura, la felicità simile all'estasi che trovavo quando si aprivano al mio sguardo, sono tra le prime sensazioni che io ricordi. Alla nascita di un secondo figlio più giovane di me di 7 anni, i miei genitori rinunciarono definitivamente alla loro vita vagabonda e si stabilirono nel loro paese natale. Possedevano una casa a Ginevra e una dimora di campagna a Berrivé, sulla sponda orientale del lago, a poco meno di 5 chilometri dalla città. Vivevamo soprattutto nella seconda, e i miei genitori conducevano una vita assai appartata. Era nel mio carattere evitare la folla e affezionarmi a poche persone. Ero quindi indifferente ai compagni di scuola in genere. Ma mi legai in una stretta amicizia con uno di loro, Henri Clerval. Era figlio di un mercante di Ginevra ed era un ragazzo di talento e fantasia fuori del comune. Amava le imprese, le difficoltà e persino il pericolo per se stesso. Era un gran conoscitore di romanzi cavallereschi e fantastici, componeva poemi eroici e aveva cominciato a scrivere svariate storie di incantesimi e avventure cavalleresche. Cercò di farci recitare in commedie e di farci partecipare a opere in maschera i cui personaggi si ispiravano agli eroi di Roncisvalle, a quelli della Tavola Rotonda di Re Artù e a tutta quella schiera di valorosi eroi cavallereschi che versarono il proprio sangue per riscattare il Santo Sepolcro dalle mani degli infedeli. Nessuno avrebbe potuto trascorrere un'infanzia più felice della mia. Il mio carattere era talvolta violento e le mie passioni focose, ma per qualche legge insita nella mia natura, queste non si volgevano verso desideri infantili, bensì in una brama di apprendere, che tuttavia non era rivolta a ogni cosa indiscriminatamente. Confesso che né le strutture delle lingue, né l'ordinamento giuridico o la politica dei vari stati ebbero mai per me alcuna attrattiva. Erano i segreti del cielo e della terra che desideravo apprendere, e sia che si trattasse della sostanza esteriore delle cose, o dello spirito occulto della natura e dell'anima misteriosa dell'uomo, le mie ricerche si dirigevano sempre verso i segreti metafisici del mondo, o piuttosto fisici, ma nel senso più alto del termine. Nel frattempo Clerval si occupava, per così dire, dei rapporti morali tra le cose. Il palcoscenico affollato della vita, le virtù degli eroi e le azioni degli uomini erano il suo tema preferito, e la sua speranza e il suo sogno erano di diventare uno di quelli i cui nomi sono passati alla storia come nobili e avventurosi benefattori della nostra specie. L'anima santa di Elisabeth splendeva come una lampada votiva nella pace della nostra casa. Il suo sorriso, la sua voce armoniosa, lo sguardo dolce di quegli occhi celestiali erano sempre presenti a benedirci e a darci forza. era lo spirito vivente dell'amore che attrae e addolcisce. Avrei potuto incupirmi a causa dei miei studi e accentuare in modi bruschi per l'ardore della mia natura, se non ci fosse stata lei a placarmi, facendomi assumere una parvenza della sua gentilezza d'animo. E Clerval, poteva qualche difetto alloggiare nel nobile spirito di Clerval? Mi è dolce indugiare su questi ricordi d'infanzia, di quando la sventura non mi aveva ancora sconvolto la mente, trasformando il fulgido sogno di potere essere utile all'umanità in tristi e meschine riflessioni su se stessa. La filosofia naturale è il genio che ha regolato il mio destino. Io desidero quindi nel mio racconto illustrare i fatti che mi hanno condotto a prediligere questa scienza. Quando avevo 13 anni, andammo tutti in gita ai bagni nei dintorni di Eton. L'inclemenza del tempo ci costrinse a rimanere un giorno intero confinati in una locanda. Lì trovai per caso un volume delle opere di Cornelio Agrippa. Lo aprì svogliatamente. La teoria che egli cerca di dimostrare e i fatti meravigliosi che espone trasformarono presto in entusiasmo il mio disinteresse. Una nuova luce parve accendersi nella mia mente e, trepidante di gioia, comunicai la scoperta a mio padre. Questi diede un'occhiata distratta al titolo del libro e disse: «Ah, Cornelio Agrippa, mio caro Victor, non perdere il tuo tempo con cose simili, sono sciocchezze». Se invece di limitarsi a questa osservazione, mio padre si fosse sforzato di spiegarmi che i principi di Agrippa erano ormai superati e che essi era subentrato un moderno sistema scientifico molto più valido dell'antico, perché le risultanze di quest'ultimo erano chimeriche, mentre quelle del nuovo erano reali e pratiche, certamente avrei messo da un canto Agrippa e avrei soddisfatto la mia immaginazione così eccitata, ritornando ai miei studi precedenti. È persino possibile che il corso delle mie idee non avrebbe mai ricevuto il fatale impulso che doveva condurmi alla rovina. Ma lo sguardo distratto che mio padre aveva dato al volume non era valso a persuadermi che egli ne conoscesse il contenuto, e continuai a leggerlo con la massima avidità. Ho già detto di come fossi imbevuto di un ardente desiderio di penetrare i segreti della natura, e nonostante l'intenso lavoro e le meravigliose scoperte dei filosofi moderni, riemergevo sempre dai miei studi scontento e insoddisfatto. Si dice che Isaac Newton abbia confessato di sentirsi di fronte all'immenso e inesplorato oceano della verità, come un bambino che raccoglie conchiglie sulla riva. E tra i suoi successori nelle diverse branche della filosofia naturale, quelli che conoscevo apparivano anche alla mia intelligenza di ragazzo, come principianti intenti alla stessa ricerca. Il contadino ignorante guarda gli elementi che lo circondano e ne conosce l'uso pratico. Il più sapiente filosofo ne sapeva poco di più. Aveva parzialmente svelato il volto della natura, ma i suoi lineamenti immortali rimanevano un mistero e un interrogativo. Poteva sezionare, anatomizzare e denominare, ma le cause di secondo e terzo grado gli erano del tutto sconosciute, per non parlare di una causa ultima. Io avevo scrutato le fortificazioni e gli impedimenti che sembravano rendere ostico agli umani l'accesso alla fortezza della natura, e senza riflettere, da ignorante, me ne ero afflitto. Ma qui c'erano libri e uomini che erano andati più a fondo e ne sapevano di più. Presi per vero tutto ciò che affermavano e divenni loro discepolo. Può sembrare strano che ciò sia accaduto nel 18° secolo, ma anche se seguivo il normale corso di studi nelle scuole di Ginevra, ero in gran parte un autodidatta per quanto riguardava i miei studi preferiti. Mio padre non aveva interesse per le scienze e venni lasciato a dibattermi in una cecità infantile che si sommava a una sete di conoscenza da studioso. Sotto la guida dei miei nuovi precettori mi posi con la massima diligenza alla ricerca della pietra filosofale e dell'elisir di lunga vita. Ma in breve tempo fu quest'ultimo a ottenere la mia massima attenzione. La ricchezza era un obiettivo di rango inferiore. Quale gloria, invece, avrebbe atteso le mie scoperte se fossi riuscito a bandire la malattia dal corpo umano e a rendere l'uomo invulnerabile a qualsiasi morte, con la sola esclusione di quella violenta. E queste non erano le mie sole visioni, no. La possibilità di evocare fantasmi o demoni era una promessa fatta con liberalità dai miei autori preferiti, e io ne ricercavo con ardore la realizzazione concreta. E ogni volta che i miei incantesimi fallivano, ne attribuivo l'insuccesso alla mia inesperienza e agli errori che commettevo, piuttosto che a una mancanza di scientificità o veridicità nei miei autori. E così per un certo periodo fui tutto preso da sistemi superati, mescolavo da inesperto mille teorie contraddittorie e mi dibattevo in un pantano di conoscenze disparate, guidato da una vivida immaginazione e da una logica infantile. Finché un incidente mutò di nuovo il corso delle mie idee. Avevo circa 15 anni quando fummo testimoni di un temporale di una violenza inaudita. Venne dalle montagne del Giura e il tuono rimbombò d'improvviso con spaventoso fragore da varie zone del cielo. Fino a che la bufera durò, rimasi a osservarne le fasi con curiosità e piacere. Mentre ero sulla porta, vidi a un tratto un torrente di fuoco sgorgare da una vecchia e splendida quercia che si drizzava a una ventina di metri dalla nostra casa. Come la luce abbagliante svanì, trovammo che la quercia era scomparsa e al suo posto c'era soltanto un tronco bruciacchiato. Quando l'indomani mattina andammo a osservarlo, trovammo l'albero stranamente contorto. La scarica non l'aveva spezzato, ma ridotto a un sottile involucro di legno. Mai avevo visto cosa distrutta in maniera così totale. Prima di questo episodio avevo già qualche nozione sulle leggi più elementari dell'elettricità. In quell'occasione era con noi una persona che aveva compiuto vaste ricerche nel campo della filosofia naturale. Stimolato da quella catastrofe, egli si addentrò nella spiegazione di una teoria che aveva elaborato personalmente sull'elettricità e sul galvanismo, per me del tutto nuova e sorprendente. Tutto ciò che disse gettò nell'ombra Cornelio Agrippa, Alberto Magno e Paracelso, che avevano regnato a lungo sulla mia immaginazione, ma per una qualche fatalità la disfatta di quei personaggi mi fece passare la voglia di perseguire i miei vecchi studi. Mi pareva che mai nulla si potesse o si sarebbe riusciti a conoscere. Quanto sino ad allora aveva occupato la mia attenzione divenne d'improvviso spregevole per uno di quei capricci della mente a cui forse siamo più soggetti in giovane età. D'un tratto abbandonai le mie precedenti occupazioni, disconobbi la storia naturale e tutta la sua progenie come una creazione deforme e abortiva, e concepii il massimo disgusto per una potenziale scienza che nemmeno si affacciava alla soglia della vera conoscenza. Fu in questo stato d'animo che intrapresi lo studio della matematica e delle diverse branche di questa scienza, che trovavo costruite su fondamenti sicuri e quindi degni della mia considerazione. E così stranamente che sono costruite le nostre anime, e da filamenti così impercettibili siamo destinati alla prosperità o alla rovina. Quando mi guardo indietro, Mi pare che questo mutamento, quasi miracoloso di inclinazione e di volontà, sia stato il suggerimento diretto del mio angelo custode, l'ultimo sforzo compiuto dallo spirito di conservazione per allontanare la tempesta che già si addensava nel cielo, pronta a travolgermi. La sua vittoria fu annunciata dall'insolita tranquillità e contentezza d'animo che seguì l'abbandono dei miei vecchi studi che negli ultimi tempi mi avevano tormentato. Fu così che imparai ad associare il male con la loro prosecuzione, la felicità con il loro abbandono. Fu un grande sforzo, quello dello spirito del bene, ma fu inefficace. Il destino era troppo potente e le sue leggi, immutabili, avevano decretato la mia totale, terribile distruzione.